evoluzione. La danza è evoluzione, capito? Lenta evoluzione, capito? La danza è evoluzione, capito? Lenta evoluzione, capito? La danza è evoluzione, capito? Lenta evoluzione. Tu è una composizione tu senza impegno. Però mi piace. Tu serve una composizione tu c'è il senza impegno. Tu arrivederci. Dove vai? Tu c'è composizione tu senza impegno. Tu serve una composizione problematica senza impegno. Agi tu dai parti. Tu è una composizione tu senza impegno. Però mi piace. Tu serve una composizione problematica. Tu c'è il senza impegno. Tu arrivederci. Dove vai? Tu è una composizione tu senza impegno. Sei sintonizzato giusto. M2O, quello che mi piace. Abbiamo un sound incredibile, sai, più si sente e più se ne vorrebbe sentire. Siamo musicisti, è normale che facciamo casino con le donne. Beh, se te sbagli, vuoi sbagli. Quello che mi piace. Fantastico. Gigi suona e a volte legna, ma la musica è degna. È un DJ che segna. Esiste con la tua musica, campione. Come tutti i grandi viaggi, Gigi D'Agostino non guarda mai in un'unica direzione, non si sofferma mai sugli stessi paesaggi, percorre sempre strade diverse, a tempo di musica. si entra in falegnameria, c'è legna per tutti. Canzone ha senso secondo te? Non deve avere alcun senso. Acchiappano certe trame. M2O, musica allo stato puro. La bontà viene da dentro, la bontà è una scelta. Quando un uomo non ha scelta, cessa d'essere uomo. Facciamo una breve pausa, ma non ve ne andate. Ricominciamo tutto, avanti, da capo. Quello che mi piace. Benvenuti in questo viaggio. M2O. C'è Gigi D'Agostino. E il resto è silenzio. Qui si ascolta musica, e qui si ascolta musica da ballo, e qui si ascolta musica, e qui si ascolta musica da ballo. Come si chiama il poeta? Con il DJ Gigi D'Agostino. Ho ascoltato tanta sua musica, diverso dagli altri. Lo so. Stai ascoltando M2O. Chi non de medie. È questo che mi piace di te. Se te piace, vamo pace. Vorrei farvi ascoltare il movimento di alcune corde. E che corde? Che corde? E che sia sollecitate con un arco, sia pizzicate o percosse. Percosse. In questa parte corse. Percosse. Con il suono percosse. Percosse. In questa parte corse. Percosse. Con il suono percosse. Percosse. In questa parte corse. Suono percosse. Percosse. In questa parte percosse. Percosse. Il suono viene prodotto dalla vibrazione. Vibrazione. Vibrazione. Dalla vibrazione. Vibrazione. Se volete mandare un messaggio a questa bellissima trasmissione radiofonica, potete farlo attraverso il telefonino 333-64-67-662. Viceversa, se volete mandare una mail, l'indirizzo di posta elettronica è gigi@gigidagostino.com. Arrivederci. La giornata molto, ma molto seriamente. Ogni giorno ho bisogno della cassa e del basso. Cassa, basso, cassa, ogni giorno. Cassa, basso, cassa, basso, cassa, basso, cassa, ogni giorno. Cassa, basso, cassa, basso, cassa, basso. Se non mi rompo, questo è il basso. Questo è la cassa. Questo è la cassa, è il basso. Ogni giorno cassa, basso, cassa, basso, cassa, basso. Se non mi rompo, questo è il cassa, basso, cassa. Se non mi rompo, Mi raccomando, delicato, ma anche fermo. Molto fermo e deciso. Capisci un po' sta musica? Stai a capire? Io non ci ho capito un cazzo. Se devo fare una cosa mia, devo essere naturale, no? Io canto i miei sentimenti per te. Canto l'amore. Che c'è di più naturale di questo? I did all boy to sabato, regà, dalle 2 alle 4 su M2O c'è sta Gigi D'Agostino con un pochino. Gigi D'Agostino, un suono per tutti. Fammi una mixata. La danza. La danza. Musica. Danza. Cammina con la danza. State ascoltando quello che mi piace. Scommetto che lo ascolti sempre. Cammina con la danza. La danza con la danza. Música la danza. Sì, vabbè, va. Comunque qui c'è gente malata. D'Agostino. Io vivo per la musica. Detto su M2O. Sempre tanto da dire con la tua musica. Passeggio con la mente. Minuti di pausa. Hanno provato a impedirmi di sentire la musica. Ma quando sono sola, la musica cresce dentro di me. E penso che se imparassi a suonarla, forse loro mi sentirebbero. Direbbero che appartengo a loro. E mi troverebbero. mondo cerca di toglierti la speranza. Ma io credo nella musica, così come certe persone credono alle favole. Ricorda che esiste qualcos'altro a parte noi in questo universo. Una connessione armonica che unisce le creature viventi in ogni parte. Perfino le stelle. M2O. Gigi D'Agostino. Dio forse ha creato l'uomo. Ma l'uomo, l'uomo è il figlio di Dio. Ha creato Dio solo per inventare se stesso. L'uomo ha scritto la Bibbia per paura di essere dimenticato, infischiandosene di Dio. Noi non amiamo e non preghiamo Dio, ma lo supplichiamo. Lo supplichiamo perché ci aiuti a tirare avanti. Cosa ci importa di Dio per com'è? Ci preoccupiamo solo di noi stessi. Sapere se Dio esiste. Ma se noi esistiamo. Benvenuti in questo viaggio. We'll be right back. su M2O. Quello che mi piace. Si sente? Agua G, roba di gassa. G, roba di gassa. Agostino. È un musicista straordinario. Credo che non lo sappia. Scusi, gli stiamo insegnando la musica. E poi che farete? Gli riempirete la testa di teorie e regole classiche? Non è sui libri che si impara la musica, ma là fuori. È lui che insegna a voi. State imparando da lui. D'Agostino con voi ogni sabato pomeriggio. Su M2O, quello che mi piace. Questo è quello che mi piace. Il teatro elettronico. Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica. Put hell to be raised as I kick some lyrics on a beat her made. It's time for hell to be raised as I kick some lyrics on a beat her made. It's time for hell to be raised as I kick some lyrics on a beat her made. Time it as I keep kicks, raise, deep lyrics on me made. Time it to be kicks, raise, deep lyrics on me made. D'Agostino. E il resto è silenzio. Chiaro il concetto. Benvenuto in onda. Grazie. Violento, sai quello wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ma che te dà proprio la saracca, picchia, chiendrea, we'll be right back. Grande sound, eh? Eh sì. Se volete scrivere un messaggino a questa bella, bellissima trasmissione radiofonica cardiotonica, il numero del telefonino è 2 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Spell pausa, ma non ve ne andate. Quello che mi piace. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just gone. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Auguri, buone feste e auguri e buone feste e auguri e auguri e un buon Natale a tutti voi e a tutti ovunque si trovino a tutti buon Natale. Siamo sempre noi, la nostra vita. Siamo sempre noi, cioè a crearci la nostra vita. Vita, sentirsi padroni della vita stessa, sentirsi padroni della vita. Padroni della vita stessa, sentirsi padroni della vita stessa, sentirsi padroni della vita stessa, della vita stessa, della vita stessa, sentirsi padroni della vita, sentirsi padroni della vita stessa, sentirsi padroni della vita, sentirsi padroni della vita stessa, sentirsi padroni della vita, padroni della vita, padroni della vita, padroni della vita, sentirsi padroni della vita, sentirsi padroni della vita, siamo noi, cioè a crearci la nostra vita. Siamo sempre noi, cioè a crearci la nostra vita. Sentirsi padroni della vita, sentirsi padroni della vita. Padroni della vita, padroni della vita. Padroni della vita stessa, padroni della vita. Però M2O. E qui ci ascolta musica, e qui ci ascolta musica da ballo. Musica che fa sempre bene. È un po' stranetta questa. Dai, dai, dai. Musica che unisce.

Cambia la scenografia sul palcoscenico del teatro elettronico. Di ricordarlo sempre. Allo stato puro. Ecco perché il programma si chiama Quello che mi piace. Questo è un nuovo sound con un nuovo look. Sentilo, ti piacerà. Certo, certo, certo, ho capito. Come on, kick! Tempo suoni? 17 dicembre 1905. Sì, vabbè, va. Riparati perché sta per scoppiarmi la testa. Gigi D'Agostino. Dalle 2 alle 4. Senza impegno. Rock your body, yeah. I say, shake it, shake it, yo. Shake it, yo. Shake it, yo. Rock your body, yeah. I say, rock your body, yeah. I say, shake it, yo. Shake it. M2O. È tutto così fantastico. Sì, mi rendo conto. Watch a man, this is the eye turn red. Pay attention to life, so easy man dead. already been said. My traveler told the man just to lick a guy head. You might pick up Teflon mixed with lead. Don't get me angry, man, man, man, he said. The bitches are with us in the air and bed. But this is my day, I'm in the whole of them bed. I guess the original lip on the boom said the reg. Freestyle dramatic, staying quietly in the attic. Spitting like a damn automatic. But let me see the shit like the last is. Watch for the static. Let me tell you for real, yo, give me your one chance. Gigi D'Agostino, un suono per tutti. Se solo avessi le parole, te lo direi, anche se mi farebbe male. Se io sapessi cosa dire, io lo farei. Lo farei, lo sai. Immaginare, dipingerei il sogno di poterti amare. Oh, se io sapessi come fare, ti scriverei. Ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare. Una canzone d'amore per farti addormentare. Che faccio uscire il calore, che non ti so spiegare. Una canzone d'amore, solo per te, solo per te, solo per te. Oh, se un giorno io riuscissi a entrare nei sogni tuoi, mi piacerebbe disegnare. Faccio uscire il calore che non ti so spiegare. Una canzone d'amore solo per te, solo per te, solo per te. Se io avessi le parole, le potessi immaginare, fosse facile spiegare, si riuscissero a suonare. Raccontare, se sapessi come fare, se sapessi cosa dire, allora ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare, una canzone d'amore per farmi addormentare, che faccio uscire il calore che non ti so spiegare. Thank you. quello che mi piace. Quasi al termine. Ogni volta che c'è la possibilità cerco di tramandare quello che io ho ricevuto da questo artista. Penso che ai giovani debba arrivare qualcosa di genere, questo lo penso io. Auguri, buone feste e basta, arrivederci.